sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Bossi per l'intervento italiano in Libia. Ieri sera telefonata al capo dello Stato del Senatur. Queste scelte, dice, vanno discusse. Totò Riina, indagato per la strage sul rapido Napoli-Milano. Nell'84 morirono 16 persone. L'attentato fu pensato per sviare le indagini su Cosa Nostra. Quasi 500 vittime in Siria dall'inizio della repressione. Il Consiglio per i diritti umani dell'ONU convoca una riunione urgente. Più di 1 milione di persone in arrivo a Roma per la beatificazione di Papa Wojtyla il 1 maggio. Buongiorno dalla redazione di GR24, buongiorno da Maria Piera Ceci. In apertura le polemiche all'interno della maggioranza sull'intervento militare in Libia, polemiche che si fanno sempre più accese in diretta. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Che le tensioni nella maggioranza siano a livelli mai vissuti prima nel recente periodo lo dimostra lo slittamento quasi sicuro questa settimana del Consiglio dei Ministri. Fonti di Palazzo Chigi raccontano di un Berlusconi che avrebbe preferito rimandare di alcuni giorni il chiarimento con la Lega sulla Libia e quello con alcuni ministri del Popolo della Libertà che reclamerebbero una maggiore collegialità nelle decisioni a partire dalle strategie economiche. Tra meno di un'ora intanto i ministri Frattini e La Russa riferiranno in Parlamento sulla scelta del governo di dare il via libera ai raid aerei sul paese nordafricano. Dal Popolo della Libertà si cerca quindi di tranquillizzare Bossi, totalmente contrario all'escalation sulla Libia. Dalla Farnesina spiegano che si tratta di una naturale evoluzione della presenza italiana. Più realista il ministro della difesa La Russa, per il quale il mutamento della situazione potrebbe richiedere un nuovo passaggio parlamentare. Se Camera e Senato ci chiedessero di votare un ordine del giorno, dice La Russa, non potremmo certo esimerci. Il no del Carroccio ai bombardamenti sembra al momento però irremovibile. Secondo la Padania, Bossi ne avrebbe spiegato i perché ieri in una telefonata al Presidente della Repubblica Napolitano. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E a chiedere una verifica parlamentare anche il segretario del Partito Democratico Bersani, in diretta Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, verificare se in Parlamento c'è la maggioranza sulla Libia, lo chiede il segretario del PD Pierluigi Bersani. Sul nucleare poi Bersani spiega che è uno scippo, quelle di Berlusconi sono affermazioni irresponsabili in cui c'è il tradimento completo del quesito referendario. Per questo il segretario PD si prepara alle amministrative, non una spallata, i governi non cascano con le amministrative, spiega Bersani, ma un segnale al Paese, ci rivolgiamo a tutti quelli che vogliono cambiare, attenti che con questa legge elettorale basta un voto in più per essere eletti, per fare il Presidente della Repubblica. E Berlusconi al Quirinale, ripete Bersani, è uno scenario da brivido. Quella che presentiamo è una squadra, spiega alla presentazione dei candidati, una compagnia di gente per bene che non è stata unta dal Signore. Critico invece nei confronti del PD Nichi Vendola, il Partito Democratico aspetta Godot, il Terzo Polo, e Vendola rilancia le primarie. Poi sulla Libia dissente da Napolitano. E sulla Libia interviene anche Antonio Di Pietro, per il leader dell'Italia dei Valori non c'è più la maggioranza, bisogna sciogliere le camere. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito e restiamo dunque sulla Libia, sui dissapori nella maggioranza in particolare. Sentiamo il commento di Stefano Folli del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Allora, è anche saltato il Consiglio dei Ministri, come abbiamo sentito. Prima evidentemente serve un chiarimento con la Lega. Ce ne sono stati tanti in questi mesi di chiarimenti con la Lega all'interno della maggioranza. Ci sarà anche questa volta? Ma questa volta si sono create una serie di intrecci piuttosto pesanti. Siamo vicini al voto delle amministrative, che per la Lega riveste un significato particolarmente importante. E c'è il fatto che obiettivamente la Lega ha sulle spalle il peso della politica riguardo all'immigrazione e quindi tutto quello che può accentuare la tensione nel Mediterraneo si riversa inevitabilmente sul suo elettorato, proprio perché il ministro dell'Interno è un leghista. E c'è, secondo me, più in generale uno stato di crescente insoddisfazione della Lega per la situazione di questo governo, di questo assetto. Non dimentichiamo che la Lega in dicembre voleva le elezioni anticipate, poi fu convinta a soprassedere, si disse che era in arrivo il federalismo fiscale e così è stato. Ma è chiaro che è un partito che è percorso da un profondo stato di malessere, di insoddisfazione. Questa volta un fatto, diciamo, comunque rilevante come la decisione di partecipare a un'azione militare di bombardamento di un paese come la Libia, ha fatto un po' da catalizzatore di tutto questo malessere. Che cosa succederà? Io non penso che andiamo a passi rapidi verso una crisi di governo, se non altro perché siamo alla vigilia delle elezioni amministrative, però certamente io credo che questo è un ulteriore segnale che questa legislatura veramente ha dato tutto quello che poteva dare. Grazie, grazie a Stefano Folli del Sole 24 Ore. Peraltro questo era il tema anche del nostro sondaggio di oggi: anche l'Italia bombarderà la Libia, scelta giusta? Il 31% di voi ha risposto di sì, il 69% ha risposto di no. Nel Question Time di oggi pomeriggio il ministro per lo sviluppo economico Romani risponderà ad interrogazioni sul piano energetico nazionale e le energie rinnovabili. Il dibattito sul nucleare, come sapete, si è riacceso dopo le dichiarazioni di ieri del presidente del Consiglio Berlusconi, che ha ammesso che la moratoria sul nucleare è stata una misura per cercare di evitare il referendum che avrebbe probabilmente fermato appunto il nucleare italiano. Perché le consultazioni si svolgano comunque, assicurano battaglia dal comitato Vota sì. Sentiamo il portavoce Vittorio Cogliatidezza al microfono di Laura Bettini. Noi continuiamo la nostra campagna referendaria anche in occasione adesso della scadenza amministrativa. Chiederemo ai candidati sindaci, ai candidati alle province di pronunciarsi su che cosa vogliono fare del nucleare, questo come primo atto. Poi proseguiremo sperando che la Corte di Cassazione rilevi il fatto che la differenza profonda che c'è tra l'abrogazione delle norme voluta dal governo e il referendum sta nel fatto che il referendum comunque impedisce di tornare a legiferare entro 5 anni su quelle norme. Ed ora la svolta nelle indagini sulla strage del treno Napoli-Milano. La strage del Rapido 904 fu la prima risposta della mafia al maxi processo a Cosa Nostra voluto dai giudici Falcone e Borsellino, e il mandante fu Totò Riina. Lo sostengono i magistrati della DDA di Napoli, titolari della nuova inchiesta sull'attentato che il 23 dicembre 1984 causò 16 morti e oltre 260 feriti. Attentato per il quale è già stato condannato con sentenza definitiva, fra gli altri, il boss mafioso Pippo Calò. Al capo dei capi di Cosa Nostra, chiamato in causa da diversi pentiti, è stata notificata in carcere questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare per strage. Dalla nuova inchiesta sarebbe emerso che per l'attentato fu utilizzato lo stesso tipo di esplosivo usato per le stragi di Capaci e Via D'Amelio, esplosivo caricato in parte dalla Camorra alla stazione centrale di Napoli. Secondo gli inquirenti, l'obiettivo di quello che per Riina doveva sembrare un fatto politico era distogliere l'attenzione dello Stato dalla lotta alla mafia per dirottarla verso il terrorismo eversivo, esercitando una forma di ricatto verso i suoi veri o presunti che fossero, così scrivono i PM, referenti politici. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ad Alba, in Piemonte, questa mattina i funerali di Pietro Ferrero, il giovane imprenditore morto il 18 aprile in Sudafrica. Ci racconta la mattinata Nino Ciravegna del Sole 24 Ore. Ad Alba sono finiti in questo momento i funerali di Pietro Ferrero. Tutta la città si è mobilitata, tutto i lavoratori, i dipendenti hanno voluto partecipare, tutte le aziende hanno concesso il permesso ai loro dipendenti di partecipare ai funerali di Pietro, che era molto amato dalla città e dai dipendenti della Ferrero. È stata una cerimonia molto commovente in una città che si è proprio chiusa nel dolore. Tutti i negozi hanno esposto una fotografia di Pietro Ferrero con lo slogan "Siamo sempre con noi", e tutti gli edifici pubblici sono chiusi, tutti hanno partecipato, si parla di 30.000 persone in una città che ne ha poco più di 30.000, ci sono stati 100 sindaci con la fascia tricolore, c'era il Presidente della Repubblica, ministri come Calderoli e Frattini, la regina del Belgio, Paola di Liegi, ma soprattutto c'era moltissima gente ed è stata una straordinaria dimostrazione di affetto della capitale delle Langhe verso questo imprenditore appassionato ciclista e appassionato anche di opera sociale, che è morto in Sudafrica dove era andato per inaugurare un'impresa sociale in una zona particolarmente difficile. E andiamo all'estero, all'aeroporto di Kabul. Un soldato afghano ha aperto il fuoco contro militari della NATO, uccidendo 6 soldati americani, diversi i feriti. In Siria, secondo le organizzazioni umanitarie, sale a 453 il numero delle vittime della repressione da parte del regime. Damasco, dal canto suo, annuncia l'arresto di alcuni terroristi che, sostiene, avrebbero attaccato civili e militari. È questo l'unico genere di documentazione audio-video che arriva dalla Siria in questi giorni. Video amatoriali di cori e spari. I giornalisti stranieri infatti sono stati quasi tutti allontanati, soprattutto dalle aree calde del sud, come quella di Daraa, dove da oltre un mese la popolazione manifesta chiedendo riforme radicali e dove la repressione è stata durissima, condotta con carri armati ed elicotteri al prezzo di centinaia di vite. Questo visto da Occidente, però. Visto da Damasco, a Daraa è in corso un'operazione militare invocata anche dalla popolazione contro pericolosi terroristi, alcuni dei quali sono stati catturati e hanno confessato di aver ricevuto armi e denaro per intraprendere una jihad contro i sionisti. A New York, dove si studia un documento di condanna delle violenze in Siria, l'ambasciatrice americana all'ONU, Rice, non ha dubbi nell'accusare il presidente Bashar al-Assad, che appartiene alla minoranza alawita, ma pur sempre sciita, di affidarsi all'Iran per reprimere il dissenso. A Teheran, l'IRIB, la radiotelevisione nazionale, non giudica che gli eventi in Siria possano finire nella sezione intitolata Risveglio islamico, come accade invece per le rivolte in Yemen, Bahrain, Egitto e Libia. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Dopo aver presentato i propri tablet computer che dal prossimo autunno tenteranno di far concorrenza all'iPad della Apple, la Sony torna a far parlare di sé per problemi al grande network che collega milioni di PlayStation in tutto il mondo. Alcuni hacker potrebbero aver rubato i numeri di carta di credito degli utenti. Da 7 giorni 77 milioni di iscritti al PlayStation Network sanno che qualche cosa non funziona. Una delle più grandi reti mondiali per videogiocare online con PlayStation 3 e PlayStation portatile è bloccata da una settimana a causa di un attacco di un gruppo di pirati informatici dai contorni ancora poco chiari. Ma se fino a poche ore fa l'unico rammarico per molti era di non avere potuto dedicare al videogioco il weekend pasquale, oggi Sony ha ammesso che i problemi potrebbero essere più gravi e non è escluso che i pirati abbiano messo le mani anche su dati personali e sui numeri di carta di credito che ogni utente lascia al momento dell'iscrizione. Il blocco e il possibile furto di credenziali riguarda anche il servizio Sony Curiosity, che permette di acquistare film e ascoltare musica online. L'azienda giapponese dovrebbe fornire maggiori particolari nelle prossime ore attraverso il blog ufficiale del PlayStation Network e via email a tutti gli iscritti. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato dell'ira di Bossi per l'intervento italiano in Libia. Ieri sera ha telefonato al capo dello Stato del Senatur, che ha detto queste scelte vanno discusse. Totò Riina, indagato per la strage sul rapido Napoli-Milano. Nell'84 morirono 16 persone. L'attentato fu pensato per sviare le indagini su Cosa Nostra. Quasi 500 vittime in Siria dall'inizio della repressione. Il Consiglio per i diritti umani dell'ONU convoca una riunione urgente. E ripartiamo dalla beatificazione domenica di Papa Giovanni Paolo II, un pontefice amatissimo dalla gente, tanto che sono attese più di 1 milione di persone. È importante nella storia soprattutto per 5 elementi che lo storico Alberto Melloni ha definito le 5 perle di Giovanni Paolo II. Melloni, quali sono dunque queste 5 perle? Io credo che dal punto di vista storico, che è quello che sono capace di studiare io, il rischio maggiore che porti un pontificato come di Giovanni Paolo II sia quello di accontentarsi delle medie, perché essendo il Papa una figura importante, avendo regnato 27 anni, avendo la vita che ha avuto, è abbastanza ovvio che tutto quanto sia nelle misure singole molto alto e alla fine ci sia contento di dire che è stato tutto gigantesco, grande, immenso, importantissimo. Allora lo sforzo che mi è sembrato di poter provare a fare è stato quello di selezionare dei momenti del pontificato nei quali la sua azione di governo, il suo modo di governare attraverso i gesti, che è stata la cosa più caratteristica del suo pontificato, hanno prevalso. E mi è sembrato che questi potessero essere da un lato un elemento abbastanza sconosciuto, cioè il sinodo dell'85 sul Vaticano II, quello nel quale ci si aspettava

fino a questo momento. Il termovalorizzatore di Acerra, che ha tre linee, ne ha un paio in come dire, ferme per lavori di manutenzione e di adeguamento, quindi non riesce a smaltire tutta la spazzatura che si produce a Napoli e provincia, e momentaneamente i napoletani utilizzano una discarica della provincia di Caserta, che però anche quella è in via di esaurimento. Tanto ne è che tutti i candidati che hanno qualche chance di vincere queste elezioni comunali, a parte il candidato del PDL, l'ex presidente dell'industria Gianni Lettieri, non parlano più del termovalorizzatore, del nuovo termovalorizzatore di Napoli Est, ma puntano chiaramente, decisamente sulla differenziata. C'è chi parla del 50% differenziata, c'è chi, come De Magistris, addirittura chiede il 70%. In questo momento, va ricordato, la differenziata di Napoli non raggiunge il 18%. Quindi ce n'è da fare, insomma, ci vorranno però anche dei soldi? Esatto, un piano così intensivo di raccolta differenziata in una città densamente popolata come Napoli, ricordiamo che Napoli, la sua provincia, ha la densità di popolazione più alta d'Europa, costerebbe, questa è una stima dell'attuale assessore all'igiene urbana Paolo Giacomelli, non meno di 60 milioni. Ma il Comune di Napoli non ha un soldo bucato, cioè è sostanzialmente fallito, ci sono crediti non riscossi per centinaia di milioni, è stato stimato che il debito sia intorno ai 250 milioni di euro, quindi chiunque vincerà le elezioni dovrà andare a Roma a chiedere a un governo che con il Sud non è stato prodigo di finanziamenti tanti, tanti soldi per varare un piano per la raccolta differenziata, che in pochi mesi dovrebbe portare Napoli appunto al 50%. Anche quello poi tecnicamente non è detto che sia possibile. Grazie Mariano. Grazie a te. E cambiamo argomento. 4.000 morti all'anno solo in Italia per l'amianto. Domani, 28 aprile, è la giornata mondiale dell'amianto. Nel nostro paese sono ancora 23 milioni le tonnellate di materiale ancora da smaltire. Partendo da un sistema già utilizzato in Francia, un gruppo di ricercatori dell'Università di Modena in Reggio Emilia e due imprenditori varesini hanno sviluppato una nuova tecnologia per trasformare l'amianto in cemento. Uno di loro, Giovanni Rossetti, lo ha intervistato Anna Migliorati. Francia sicuramente adotta questo sistema a livello, è un'azienda statale in Artam che effettua questa trasformazione già da anni. In Italia invece si è sempre proseguito col classico metodo del ritombamento in discarica, ma prevalentemente con l'esportazione in Germania, Austria e Svizzera. Tenga conto che Austria e Svizzera hanno già chiuso le frontiere da tempo e Germania ha avvisato Regione Lombardia dicendo che a brevissimo impedirà l'esportazione del nostro fibrocemento contenente amianto. E quindi l'alternativa che voi avete indicato è quella di trasformare l'amianto? Di trasformare l'amianto, chiaramente un processo proprio di cottura. Immagini così com'è il pacco, quindi quando le società del settore bonificano un tetto, imballano queste lastre di cemento amianto e le spruzza con un materiale per evitare la dispersione di fibre. Così come attualmente adesso parte e viene condotto in Germania eccetera per essere smaltito in discarica, entra nel nostro forno. Ci rimane circa 36 ore e questo processo di cottura trasforma l'amianto in una fibra che non è più pericolosa. Utilizzabile quindi come? Questo prodotto viene riutilizzato al posto del cemento nel calcestruzzo. Cosa manca perché si parta? Solo i permessi. E ci trasferiamo invece a Londra perché ormai davvero tutto è pronto per il Royal Wedding. Mentre si percorre Victoria Street, solo una lunghissima fila di transenne anticipa per ora quella che sarà la buffata mediatica da Royal Wedding, perché di fronte a Westminster Abbey è già un delirio di gente che si assiepa sui palchi davanti alla cattedrale. I giornalisti preparano le dirette, i cameraman cercano l'inquadratura migliore. Le prove generali sono scattate anche per i ritardatari, mentre con la tendina c'è già chi si prepara per le notti d'attesa in vista dell'arrivo di William e Kate. E pazienza se per i reali che saranno presenti tutto il resto, cioè chi non è coronato, ovvero il mondo intero, è solo un indistinto magma di commoner o poco più. Molti fra i sudditi di insomma, non si perderanno l'appuntamento neanche per niente, per cui le britanniche ore d'attesa non sono che un semplice incomodo. L'importante sarà esserci, con in mano la Union Flag e il cappello d'ordinanza. Vestito con una maglietta dedicata a Will e Kate, con su scritto Diana sarebbe orgogliosa, il 56enne John è il primo arrivato ed ha intenzione di dormire qui fino al giorno dopo le nozze. Quanto ai cappelli, anche gli spettatori che seguiranno l'evento sui megaschermi a Trafalgar Square e a The Park sono stati esortati a vestirsi bene e indossarli, come se si trovassero anche loro all'interno della chiesa. Vendere almeno il sogno è il vero imperativo di casa Windsor. Per brindare agli sposi, poi torta nuziale e champagne saranno in vendita dalle bancarelle. Per il resto della festa basterà recarsi in qualsiasi Sainsbury o negozietto d'angolo. L'immancabile confezione di latta con la foto dei promessi, questa sì, regna già dovunque, mentre Londra, in perfetto stile understatement, ancora aspetta, rivestendo le ultime vetrine all'insegna della un po' patriottica e molto kitsch effigie dei reali piccioncini, che in modo inquietante guardano da ogni dove. Stefano Biolchini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. E grande sfida per la semifinale di andata in Champions League questa sera al Santiago Bernabéu fra il Real Madrid di Mourinho e il Barcellona di Guardiola. Chi è la favorita? Il parere di Luisito Suarez, ex giocatore del Barcellona, poi passato alla grande Inter di Elenio Herrera, al microfono di Adriana Fracchia. Penso che una leggera ce l'ha il Barcellona, perché a due partite penso che è una squadra che è un po' più collaudata del Madrid, però sarà battaglia dura nelle due partite e penso che dovrebbe spuntarla al Barcellona con grandissime difficoltà, questo è chiaro, no? E invece per quanto riguarda questa presunta, diciamo, rivalità fra Guardiola e Mourinho, cosa ne pensa? Ma guardi, no, lì io penso che più che rivalità fra di loro c'è la rivalità di queste due squadre che va al di là e oltre a quello che è lo sport, il calcio. Lì è una questione anche di politica delle due squadre, delle due città, che c'è una rivalità tremenda. Adesso ci sono questi due, poi Mourinho lo sappiamo che è uno che gli piace creare un po' così l'ambiente un po' favorevole a lui, ma non credo che vada più di tanto al di là di queste così scaramucce prima della partita, no? Credo che quello che è la rivalità vera e propria sono quelle delle due squadre, sai, l'allenatore oggi sono questi due, domani ci sono altri e sarà la stessa cosa. Io dico che dipende sempre più di giocatore che non dell'allenatore. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.